Capitolo 7. Quando Ingeborg scese dal treno alla stazione di Rochester, una settimana e un giorno dopo la sua partenza, stava piovendo. Era la pioggia leggera, fine, persistente, tipica di quell'angolo d'Inghilterra, poco più di una nebbiolina. I prati dei giardini, che la carrozza superava arrancando sopra la collina, erano incredibilmente verdi. Le foglie dei cespugli di lilà rilucevano per l'umidità. I tulipani parevano copperi colme d'acqua e le strade sembravano sciogliersi come cioccolato. Una spessa coltre di nubi aleggiava sopra la città, avvolgendola in un tiepido abbraccio e impedendo alle sferzanti correnti d'aria fredda di soffiare sui suoi abitanti, richiamandoli alla vita reale. Il facchino le disse che il tempo era di quello buono a far crescere ogni cosa e lei si chiese con tetro umorismo perché mai, dopo le dosi massicce ricevute, non fosse cresciuta lei stessa in modo più soddisfacente. Un colonnello in pensione, inevitabilmente Ingeborg conosceva tutti i colonnelli in pensione, la salutò con un cenno dell'ombrello e le rivolse una garbata richiesta di notizie sul suo mal di denti. Lei lo fissò con sguardo inespressivo, accigliata. Anche il postino, superandola, si portò la mano al cappello in un gesto di saluto, ma lei si girò dall'altra parte. Le figure femminili alenate da una vita, avvolte nei loro pratici impermeabili e con quella loro aria saggia, la salutarono con cenni del capo e sorrisi, ma lei finse di non vederle. Provava fastidio e imbarazzo nel prendere atto che tutti si comportavano come se lei stesse di nuovo bene e non riusciva a sopprimere il desiderio di fuggire da tutto e da tutti. Ed ecco i negozi, con gli stessi mutati articoli che ricordava esposti già quando era partita 9 giorni prima, le stesse vetuste novità che nessuno acquistava, le stesse eterne mosche posate sulle solite ciambelle. Ecco il libraio dal quale proveniva il suo anno cristiano, nelle cui vetrine erano affastellate un'infinità di copie dello stesso libro. Una provvista infinita per un infinito numero di figlie messe a dieta, rese vegetariane della letteratura, come le definiva lei, forzatamente tali. Ecco la bottega dell'orafo che forniva al vescovo le croci in argento modellate secondo un modello di fattura fiorentina del XV secolo, che il vescovo soleva donare alle figlie dei maggiorenni delle diocesi quando impartiva loro il sacramento della cresima. La figlia del duca ne aveva ricevuta una, la figlia del viceré ne aveva ricevuta una. Anche Ingeborg ne aveva ricevuta una, che indossava giorno e notte, secondo i precetti del padre, sotto il vestito, dove le aveva formato una zona livida, nel punto in cui sfregava continuamente sulla pelle. Suo padre trovava rasserenante, durante i frequenti attimi in cui si accumulavano la tensione e la polvere di quegli attimi del suo operato, che reputava più avvilenti, a ricordare che ogni anno vi fosse un numero sempre crescente, benché strettamente vagliato, di bluse indossate da nobili vergini appartenenti alle migliori famiglie sotto le quali era custodita e batteva ritmicamente quella memoria in argento che richiamava alla mente colui che l'aveva donata, nonché il loro Dio. Padre, aveva detto un giorno Ingeborg, dopo aver indossato la sua per una settimana, posso togliermi la croce di notte? Perché, Ingeborg? Forse l'ha fatto nostro Signore? No, ma vedete, quando una persona si gira nel sonno, essa tende a conficcarsi. Conficcarsi, Ingeborg? Chiese il vescovo gentilmente, sollevando un sopracciglio nell'udire quell'espressione applicata a un simile oggetto. Sì, e mi sta provocando un livido orrendo. Frequentava ancora la scuola ed era solita pronunciare la parola orrendo. È scritto che le sue frustate ci guariscono, disse il vescovo, troncando la conversazione allo stesso modo in cui una persona chiude un libro. Nonostante il clima caldo e umido, passando davanti alla vetrina dell'orafo, evocativa di quel ricordo, fu percorsa da un brivido. Quell'episodio era accaduto anni prima, ma anche risalendo più indietro nel tempo, nel periodo più remoto che le riuscisse di ricordare, ogni volta che aveva chiesto a suo padre il permesso di fare qualcosa, ne aveva ricevuto in risposta un diniego, e i dinieghi erano sempre stati imposti attraverso brevi citazioni bibliche, un fatto che la riduceva inesorabilmente al silenzio. E ora, con quale coraggio avrebbe potuto affrontarlo, ricoperta da capo a piedi di licenze non concesse, bensì sottratte con l'inganno, e implorarlo di concederle la licenza più onerosa in assoluto, quella di acconsentire al matrimonio con Herr Dremmel? Poiché quello era il modo in cui aveva trascorso gli ultimi 2 giorni del viaggio organizzato da fidanzata ufficiale di Herr Dremmel. Aveva trovato che i suoi tentativi di spiegargli che lei non si poteva considerare fidanzata non avevano minimamente intaccato la sua convinzione che invece lui lo fosse davvero. E anche l'opinione pubblica, quella cioè costituita dai compagni di escursione, non aveva mai nemmeno per un attimo messo in dubbio la sua posizione. Dopotutto, sette dei suoi affidabili membri non erano forse stati testimoni di tutta la cerimonia. In realtà essi non solo non ne avevano il minimo dubbio, ma erano fermamente determinati a impedirle di cambiarla, che le piacesse o meno. Pertanto l'unica cosa che le rimaneva da fare era affrontare il vescovo. Si sentiva gelare, nemmeno il consueto umido tepore riusciva a riscaldarla. Invano tentò di star seduta ben eretta, di mostrare orgoglio e coraggio e di rimpossessarsi di quell'ardimento che pareva venirle così facile in Svizzera negli ultimi giorni, quando il riso di Herr Dremel fugava ogni suo dubbio. Ora sentiva le mani e i piedi gelidi come pietra, il capo che si reclinava per l'abbattimento. Era colpa di quel posto, pensò, sì, di quel posto e dell'affetto ipnotico prodotto da rientrare nel proprio vecchio reclusorio. Tutta Recester era intrisa dal ricordo di passate obbedienze. Lì, l'idea di ribellarsi non l'avrebbe mai sfiorata. Recentemente gli anfratti del suo cuore più remoti e meno pregni d'amore filiale avevano iniziato a generare qualche debole scintilla, pur non arrivando mai a far divampare le fiammate di un'aperta insurrezione. Strano, ma non appena la sua vista e il suo udito si erano sottratti all'influenza esercitata dall'ambiente familiare, molti dei comportamenti che le era stato insegnato a considerare disdicevoli le apparivano del tutto benefici e naturali. E quando anche ancor più strano, ora che era tornata a casa, che tutto riprendesse a sembrarle indecoroso. Che cosa doveva fare una povera anima derelitta? Si chiese con improvvisa veemenza, se non riusciva a seguire i passi di coloro che si muovevano come se stessero danzando una complicata quadriglia. Questo era il luogo in cui per anni la sua coscienza era stata addestrata alla temperanza e alla remissività, e benché essa si fosse temporaneamente ringalluzzita in compagnia di Herr Dremmel, Ingeborg a ogni giro di ruota della carrozza si sentiva sempre più incline a lasciarsi trascinare verso l'antica debolezza. Non vi era comunque alcun dubbio. Rimorsi di coscienza o meno, che fosse ormai tempo di confessare al padre le sue azioni. Avrebbe dovuto farsi coraggio e, se fosse stato il caso, persino sfidarlo. Ora era legata a Herr Dremmel. Mentre lei avrebbe preparato il vescovo, lui si sarebbe recato a casa, giusto il tempo di mettere ordine tra i suoi documenti, e poi le aveva annunciato sarebbe venuta a Recester per sposarla. Preparare il vescovo. Ingeborg rabbrividì. Herr Dremmel aveva tentato di sposare la Lucerna, ma a quanto pareva gli svizzeri non erano gente che si lasciasse mettere fretta. Pertanto eccola di ritorno con il gravoso compito di comunicare al vescovo la notizia. Chiuse gli occhi e pensò a Herr Dremmel, o per meglio dire a Robert, dato che si stava abituando a chiamarlo in quel modo. Lui si era dimostrato davvero carino e quando aveva scoperto che Ingeborg doveva venire inghiottita nei suoi abbracci, aveva limitato le dimostrazioni d'affetto a un semplice baciamano, dicendole che avrebbe potuto benissimo aspettare ancora un po', confortato dalla certezza che dopo il matrimonio lei si sarebbe sentita più calorosa nei suoi confronti. Un fatto che, come aveva già avuto modo di spiegare sulla vetta del Righi, nessuna donna mancava di manifestare, mostrando infine di comprendere appieno il valore delle carezze di un uomo onesto. Robert aveva inventato per lei un numero incredibile di amorevoli vezzeggiativi tedeschi, pescati in qualche anfratto della sua mente rimasto sinora incolto, e li aveva utilizzati per guarnire la sua conversazione. E Ingeborg, cresciuta con l'austero linguaggio della Bibbia e del libro delle preghiere nelle orecchie, ed estremamente sensibile al fascino delle parole, ne rideva di gusto, avvampando di piacere. Era di volta in volta il suo cuoricino, il suo tesorino, il suo agnellino di zucchero e una dozzina di altri dolci nomignoli tedeschi tradotti direttamente, così come erano in lingua inglese. Come la rincuoravano, come trovava confortante dopo l'economia praticata a casa in quella sfera, che qualcuno l'amasse e la vezzeggiasse. Intanto l'anello di fidanzamento le ciondolava sotto l'abito, appeso alla stessa catena dalla quale pendeva la croce regalatale dal padre. Sì, oramai era legata a lui. Ingeborg pensò che talvolta il senso del dovere poteva rivelarsi una fortuna quando riusciva a proteggere da un'altra forma di dovere. E ora Herr Dremmel era diventato il suo dovere. Non appena la cattedrale si profilò all'orizzonte, Ingeborg sollevò d'istinto la mano a tastare l'anello sotto la stoffa per farsi animo, poiché il coraggio dentro di lei la stava abbandonando. Dato che le era impossibile portarlo al pollice, l'anello era stato infilato sulla catena insieme alla croce avuta in occasione della cresima. Là, in Svizzera, dove veniva spontaneo essere semplici, le era sembrata la cosa più naturale da fare. Eppure ora, mentre la carrozza sobbalzava sui ciottoli del terreno cintato della cattedrale e quest'ultima si stagliava dinanzi ai suoi occhi come una minaccia, Ingeborg chinò il capo, assalita dal dubbio di avere profanato la sacralità della croce unendola a quel pegno d'amore. Quando, dopo aver attraversato il prato prospiciente e l'ingresso al palazzo, raggiunse il grande cedro che proiettava attorno a sé la sua ombra, un angolo particolarmente denso di gocciolante tristezza in un mondo pregno di gocce di tristezza, non trovò nessuno ad attenderla se non il maggiordomo, i cui abiti neri la colpirono subito per il suo lindore e ordine, accompagnato dal valletto, un giovanotto il cui aspetto era tenuto sull'orlo di un'adeguata trascuratezza episcopale. Alla stazione di Paddington aveva telegrafato per comunicare con quale treno sarebbe giunta, ma quella naturalmente non era una ragione valida per cui vi dovesse essere qualcuno sulla porta in sua attesa. A casa era lei ad avere l'incombenza di presidiare la soglia all'arrivo e allocomiatarsi altrui. Era lei cui aspettava il compito di accogliere e di congedare, e dato che non poteva accogliere se stessa, nessun altro venne a farlo. Lanciò un'occhiata nervosa a Wilson mentre l'aiutava a scendere, ma il suo volto era impassibile. Il ragazzo che le stava al fianco dall'altra parte invece aveva sul viso un'espressione curiosa, forse in circostanze diverse si sarebbe lasciato andare a un sorriso faceto. Lei distolse lo sguardo in preda a una leggera sensazione di nausea. Forse già sapevano tutti loro che aveva lasciato la casa della zia da una settimana, un fatto che ora le pareva un'inezia se paragonato agli avvenimenti successivi. «Sono una ragazza morta», pensò Ingeborg mentre percorreva il portico su cui si affacciavano le stanze dei genitori. I domestici portarono dentro il bagaglio, dal quale, non essendo avvezza all'inganno, si era scordata di raschiare via le etichette che rivelavano il suo passaggio sul continente. Indi attraversò l'atrio, calpestando in sequenza le pozze di deliziose e pallide sfumature multicolori che si creavano quando la luce proveniente dall'esterno filtrava attraverso le grandi vetrate policrome istoriate, ricadendo sulle pietre che lastricavano il pavimento. Era un atrio maestoso mentre lo attraversava, dirigendosi verso la grande porta in quercia scolpita che si apriva sull'ampio corridoio rivestito di pannelli in legno, che a sua volta ammetteva lo studio. Si sentiva ancora più insignificante, nient'altro che un'esile figuretta barbicata a una stilla di miserevole coraggio. Una fragile creatura che si apprestava a sfidare un potere di cui tutta quella magnificenza era solo una delle tante sfaccettature. Sua madre, come sempre, era sul divano accanto al fuoco, il cui vigore in quella giornata calda veniva mitigato dalla finestra spalancata. Vicino a lei, come sempre, il suo speciale tavolo, su cui stava il solito vaso di fiori, il ricamo, i libri religiosi e le biografie di uomini pii. Vedendola così, immobile e composta, nella stessa identica posizione ed espressione di quando l'aveva lasciata 9 giorni prima, le riusciva difficile credere che si fosse alzata da quel divano 9 volte per andare a letto, che si fosse svestita, rivestita e che avesse consumato i pasti. 36 pasti, calcolò Ingeborg meccanicamente, mentre scrutava lo spazio circostante in cerca della figura del vescovo. 36. Se non si contano i tè prima di colazione e 45 se li si includono. Nell'aprire la porta sentì diffondersi nella sala il canto assordante dei tordi proveniente dalle finestre affacciate direttamente sul giardino rigoglioso e zuppo d'acqua. E data la giornata piovosa e dunque prodiga di vermi, quei volatici stavano banchettando. Judith preparava il tè, tenendosi discosta il più possibile dal fuoco. Del vescovo nessuna traccia. «Sei tu, Ingeborg?» chiese la madre, girando verso la porta il viso smunto per i lunghi anni passati al chiuso. La madre di Ingeborg aveva trovato il divano così come altri trovano la salvezza. Non era malata, semplicemente aveva trovato in quel mezzo un rifugio e un continuo sostegno contro tutti i problemi e le inquietudini della vita, nonché, in modo particolare, uno scudo e una protezione nei confronti del vescovo. Non è semplice perché sposato, aveva scoperto all'inizio, una volta portata a termine la ricerca di un marito, scovare un rifugio che potesse essere onorevole per entrambi. In un lampo di genio le era venuta l'ispirazione del divano. Ecco un oggetto inattaccabile che l'avrebbe tenuta a debita distanza da doveri e responsabilità di ogni sorta. Era rispettabile, inconfutabilmente efficace e non veniva menzionato nei comandamenti. E sarebbe bastato aggrapparsi ad esso con tutte le sue forze. Nulla l'avrebbe mai costretta a subire le altrui volontà. Pertanto vi era insediata per non discenderne più, trasformandosi in una misteriosa, fragile creatura da commiserare e assecondare, un essere la cui impotenza avrebbe reso ancora più impotente persino il marito più irruento o più oltraggioso. E gradualmente aveva acquisito quell'aspetto da divano dipendente, divenendo l'immagine vagamente lamentosa ma ostinatamente paziente del modello femminile di insuperata cristianità. «Sei tu, Ingeborg?» chiese volgendo il capo. «Sì, madre», disse Ingeborg dalla soglia con un'involontaria esitazione. Scrutò ansiosamente lo spazio circostante, ma il vescovo non sembrava essere in agguato in nessuno dei molti angoli appartati presenti nell'ampia stanza. «Entra, cara, e chiudi la porta. Lo vedi che le finestre sono aperte?» Judith, dal tavolo del tè, la guardò per un istante, ma non si mosse. Sebbene in preda al terrore, Ingeborg non poté fare a meno di stupirsi, dopo non averla avuta sotto gli occhi per un po', dell'incantevole bellezza della sorella. Sembrava avesse catturato le diverse sfumature di grigio grondanti d'acqua, l'assenza di colore, il buio incipiente. E con il senso di desolazione che questi infondevano, avesse intessuto lo sfondo perfetto per dare risalto alla sua avvenenza. «Pensavamo avresti scritto», disse Mrs. Bullivan, offrendo la guancia in posizione adatta a ricevere il bacio che vi sarebbe stato apposto. «Ho telegrafato», disse Ingeborg, apponendo il bacio. «Sì, cara, ma solo per comunicarci con quale treno saresti arrivata». «Io credevo fosse sufficiente». «Ma Ingeborg, cara, un magnifico vento, una delle grandi occasioni della vita! Ci saremmo aspettati almeno un breve messaggio, non è così, Judith?» «Messaggio?» gli fece eco Ingeborg con voce fioca. «Tuo padre ci è rimasto molto male. Pensa che il tuo comportamento dimostri davvero poca considerazione per i tuoi genitori e per tua sorella. Ma...» disse Ingeborg spostando lo sguardo da una figura all'altra. «Ti abbiamo scritto subito, non appena l'abbiamo saputo. Non è così, Judith?» «Certo», disse Judith. Ingeborg se ne stava in piedi, mentre il suo viso avvampava e impallidiva in successione. Era possibile che uno degli escursionisti, a conoscenza del suo indirizzo, avesse scritto annunciando il suo fidanzamento e che l'impossibile si fosse realizzato, cioè che loro non erano dispiaciuti? Era possibile che sapessero e che accogliessero la notizia in quel modo? Se solo fosse passata da casa della zia nel recarsi a Paddington e avesse visto la lettera. Quante ore di miserevole travaglio si sarebbe risparmiata. Ma iniziò. Poi l'immenso sollievo la investì come un fiume in piena e sentì una calda, benefica dolcezza pervadere tutto il suo essere. L'avevano saputo in qualche modo e il miracolo era accaduto. Oh, com'era buono Dio! Si buttò in ginocchio accanto al divano e prese a baciare la mano di sua madre. Mrs. Bullivan si sorprese di fronte a quello stratagemma straniero, utilizzato per lo più da chi si recava all'estero. «Madre, davvero ve ne rallegrate? Allora non siete dispiaciuta?» «Dispiaciuta?» proferì Mr. Bullivan. «Oh, quanto sono felice, quanto! E mio padre che cosa dice? È dispiaciuto?» «Dispiaciuto?» ripeté Mrs. Bullivan. «Papà è molto felice, credo», disse Judith con quella che in una creatura meno bella sarebbe potuta apparire come una lieve smorfia di sdegno, le labbra appena incurvate all'ingiù, e offrì alla vista della sorella la mano adornata da un anello di diamanti. «Papà è felice?» fece eco Ingeborg, sbalordita dalla quantità e qualità del suo sollievo. «Devo dire che è veramente magnanimo da parte di tuo padre. Essere felice quando in realtà perde», iniziò Mrs. Bullivan. «Oh, sì», la interruppe Ingeborg sopraffatta. «È un miracolo di Dio!» «Ingeborg, cara», la rimproverò gentilmente la madre, dato che quell'uscita le sembrava un po' eccessiva. Sua sorella intanto aveva assunto un'espressione che fosse stata un'altra qualsiasi donna si sarebbe potuta definire risentita. «Quando in realtà perde così tanto!» terminò Mrs. Bullivan, con la determinazione lamentevole di chi crede che il minimo dovuto nei confronti di una madre costretta sul divano sia consentirle di completare le frasi. Sì, convenne Ingeborg con ardore, il cui apprezzamento per i suoi genitori era in quel momento così caloroso che quasi sentì di dover rimanere a scaldarsi il cuore vicino al calore di tanta magnanimità, rinunciando ad abbandonarli per quella landa desolata che era la Prussia orientale. Tuo padre non perde solo una figlia, continuò Mrs. Balliva. Perde anche 500 sterline annue dalle sue rendite. E quel denaro lo definireste suo? Chiese Judith educatamente, ma se fosse possibile sospettare una tal cosa da parte di qualcuno con il viso d'angelo, anche con un accenno di fastidio. Credevo che nostra nonna. Judith, cara, è previsto che la rendita di 500 sterline annue che vostra nonna vi ha lasciato debba passare a ognuna di voi solo al momento del matrimonio, spiegò Mrs. Bullivan, soffocando a sua volta una leggera traccia di contrarietà che increspava le acque calme della sua pazienza. Era stabilito che sino al giorno delle tue nozze quella somma sarebbe rimasta di mia proprietà, intendo dire di proprietà di tuo padre, naturalmente, e se tu non ti fossi mai sposata sarebbe rimasta a me, intendo dire a lui, per sempre. Ingeborg aveva sentito parlare del testamento della nonna svedese, ma se n'era dimenticata molto tempo fa, dato che il matrimonio era una prospettiva molto remota e i soldi non avendo alcuna occasione per spendere in un argomento che le interessava ben poco. Ora sentì che il cuore le si gonfiava in petto per una gratitudine ancora più intensa. Come sarebbero tornati utili a Robert? Come l'avrebbe aiutato nelle sue ricerche? Incredibile non averci pensato prima. Lui le aveva comunicato che la casa e il terreno non comportavano alcuna spesa e che il suo stipendio ammontava a 5.000 marchi, l'equivalente di 250 sterline inglesi, aveva spiegato. La maggior parte del quale finiva nei suoi esperimenti, assicurandole che quello che rimaneva era più che sufficiente per le necessità quotidiane di due esseri ragionevoli che affrontavano quella situazione con spirito adeguato e che tutto dipendeva appunto dalla loro capacità di affrontarla con quello spirito. Dopotutto, aveva aggiunto in tono orgoglioso, gonfiando il petto all'infuori, proprio mentre lei stava per domandargli quale fosse lo spirito adeguato, nessuno può dire che io sia denutrito. E lei si era dimenticata di informarlo su quel cospicuo aiuto che sarebbe stata in grado di offrirgli. La magnificenza della generosità dimostrata dal padre, che si era detto felice del suo fidanzamento, la investì in pieno. Che sollievo! Che intenso, beato sollievo! Era così che ci si doveva sentire al momento della rinascita, quando tutto era puro e mondato dalle vecchie colpe e paure. Si sentì sollevata, straordinariamente felice e buona, in armonia con la provvidenza e con la Bibbia come ai tempi della sua infanzia. Avrebbe avuto voglia, e lo trovò perfettamente naturale, di inginocchiarsi accanto a Giudice e a sua madre lì in quel momento e recitare preghiere ad alta voce. Trascinata sull'onda della gratitudine, sarebbe stata pronta a rinunciare a Herr Dremmel in cambio dell'immensa magnanimità della sua famiglia nel non chiedere di rinunciarvi. Non aveva mai provato un tale stato di esaltazione in tutta la sua vita, una così completa sintonia con l'infinito, una sterminata fiducia nella bontà intrinseca di ogni cosa, fatto salvo il giorno in cui le avevano estratto il dente. Oh! Esclamò, poggiando la guancia sulla mano di sua madre. Spero tanto che Robert vi piacerà. Robert? Domandò Mrs. Bullivan mentre presso il tavolino da tè il tramestio delle tazze cessava e cadeva un silenzio improvviso, come se anche le tazze stesse si fossero immobilizzate di propria volontà. Si chiama Robert, disse Ingeborg ancora con la guancia sulla mano della madre, gli occhi chiusi e il viso composto in un'espressione di confortevole e calda felicità. Quale Robert, Ingeborg? Indagò Mrs. Bullivan, cambiando posizione per guardare più comodamente sua figlia. Herr Dremmel! E Robert è il suo nome di battesimo. Deve pure averne uno, sapete? Disse Ingeborg con gli occhi chiusi nella beatitudine della fiducia non ancora incriminata. Herr chi? Chiese Mrs. Bullivant con una nota tagliente nella voce che non si era sentita da anni. Ecco tuo padre, aggiunse rapida, ricomponendosi frettolosamente nella parte dell'inespugnabile invalida mentre la porta si apriva e il vescovo faceva il suo ingresso. Ingeborg balzò all'impiedi. Oh padre! Gridò, correndo verso di lui con la totale mancanza di pudore che è possibile immaginare solo in un'anima purificata e perdonata che abbia appena raggiunto il paradiso e trovandovi il creatore, comprenda che non vi saranno più malintesi per tutta l'eternità. Come siete buono! e nella stanza, d'un tratto silenziosa, lo baciò con tale trasporto che l'effusione risuonò alquanto rumorosa. Il vescovo si sentì punto sul vivo. Non era forse sempre stato buono? La gratitudine eccessiva di sua figlia, e a dire il vero anche un po' troppo rumorosa per ciò che era stato inevitabile, cioè concedere il permesso di andare a Londra per mettersi nelle mani di un dentista, suggeriva che quell'umanità da parte sua le giungeva come una sorpresa. Sentiva che era stato buono a lasciarla andare, ma sentiva anche che non sarebbe stato buono se non l'avesse lasciata andare. Di certo la pubblica opinione di Rochester l'avrebbe condannato come crudele, anche se lui, conoscendo tutte le circostanze, non avrebbe potuto condividere quel pensiero. La vera ignominia, infatti, era il terribile disordine in cui versavano i suoi documenti e la sua corrispondenza a causa della prolungata assenza della figlia. Gravi forme di disorganizzazione avevano preso piede nei meandri dei suoi appuntamenti, alcune con conseguenze di larga portata che egli non poteva fare a meno di imputare al fatto che Ingeborg, nonostante i precetti e il buon esempio, in più giovane età aveva mancato di utilizzare lo spazzolino da denti regolarmente con coscienziosità. La sua negligenza era evidente, altrimenti perché mai sarebbero stati necessari 9 giorni per porvi rimedio? Egli stesso, che considerava il suo corpo come un tempio sacro, l'unica definizione che rispondesse in modo soddisfacente al quesito di come considerarlo, si era lavato i denti dopo ogni passo per 40 anni in virtù del fatto che a loro volta essi venivano considerati come le colonne di quel sacro tempio e non aveva mai sofferto di mal di denti in tutta la sua vita. E ora speriamo, Ingeborg, disse, riflettendo sull'esempio che lei le aveva fornito, paragonandole a una moderna versione della legge mosaica, secondo la quale le colpe dei padri ricadevano sui figli e ritenendo che la versione originale fosse di gran lunga più salutare, speriamo che una volta imparata la lezione tu possa ricordare in futuro che l'igiene è molto prossima alla devozione, aggiunse, scostandola con gentilezza per poter procedere in direzione del tavolino da tè con la mano protesa per ricevere la tazza che Judith si stava affrettando a offrirgli. La risposta parve a Ingeborg così sorprendente che si limitò a rimanere immobile in mezzo al tappeto, fissandolo con gli occhi sgranati, la mascella rilasciata che le faceva schiudere la bocca. Ma il vescovo non aveva ancora finito. Continuò con parole che la sorpresero ancora di più, anzi, che la raggelarono, scuotendola fino alle più intime fibre. Dopo una pausa, in cui il silenzio si era fatto palpabile, girandole la schiena, mentre presso il tavolino da tè sceglieva con determinazione la fetta di pane imburrato che intendeva mangiare, le domandò: «E di grazia, Ingeborg, perché mai quando ti abbiamo scritto non hai risposto subito per congratularti con tua sorella per il suo fidanzamento?»